sentano che non cambierai più. Quelle notti fra cosce, zanzare, nebbia e locali a cui dai del tu. Rocker, regista, scrittore e ora anche sceneggiatore di fumetti. Una carriera davvero eclettica, quella di Luciano Ligabue da Correggio. L'ultima fatica del Liga è stata presentata al Comics and Game, la fiera del fumetto e dei videogiochi al Palabam di Mantova. La nuova storia a strisce è ispirata al suo ultimo romanzo, La neve se ne frega, del 2004. Ligabue si è avvalso della collaborazione del disegnatore Giuseppe Carnuncoli e dello sceneggiatore Matteo Casali. Sentiamo come Carnuncoli racconta l'esperienza di lavoro con Ligabue. Libertà assoluta. L'adattamento è stato fatto da Matteo Casali, appunto, che è uno sceneggiatore con cui collaboro da tantissimo tempo, e già il fatto che Luciano ci abbia detto voi fate quello che volete vuol dire che prima di tutto si fidava di noi e pensava comunque che come autore avremmo potuto fare un buon lavoro anche senza il suo intervento. Matteo ha fatto la sua opera di adattamento e io ho iniziato per esempio a studiarmi un po' gli ambienti, i personaggi e a chiedergli dei consigli, per esempio sui volti da dare ai protagonisti, su come potevano essere certi vestiti o certe ambientazioni futuristiche. Poi man mano che venivano fatte le pagine gli venivano inviate, lui ci mandava i suoi commenti e quindi da questo punto di vista ci ha seguito passo passo, ecco, devo dire con una bella costanza. Ci vediamo da Mario. Il fumetto di Ligabue, La neve se ne frega, uscirà in 3 volumi che saranno in vendita in edicola. Paolo Panceri, GR24, Il Sole 24 Ore.